Amore, scusami se sto piangendo, amore, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. E se mi penserai, ricordati che amo te. Ti ricordi quella sera che per gioco ti baciai? Sembrava solo un'avventura in riva al mare. Ti baciavo nel silenzio, non volevo confessare che stavo forse a poco innamorandomi di te. Se sto piangendo, amore, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami. E se mi penserai, ricordati che amo te.